habe ich ihn. Sehen Sterne und Schweiß wie Öl. Join the Rhythm, habe ich ihn. Schmerz und Tal verloren. Oh, oh. La sensibilità individualista suppone un vivo bisogno di indipendenza, di sincerità con sé e con gli altri, il che non è che una forma dell'indipendenza di spirito, un bisogno di discrezione e di delicatezza, il quale procede da un vivo sentimento della barriera che separa gli esseri, che li rende incomunicabili e intangibili. La sensibilità individualista entra inevitabilmente in conflitto con la società in cui si evolve. La tendenza della società infatti è di ridurre più che possibile il sentimento dell'individualista, l'unicità con il conformismo, la spontaneità con la disciplina, l'istantaneità dell'io con lo spirito gregario, la sincerità del sentimento con l'insincerità inerente ad ogni funzione socialmente definita, la fiducia in sé e l'orgoglio di sé con l'umiliazione inseparabile da ogni addomesticamento sociale. Un filosofo del cazzo, George Palante. Allora, si è iniziato con queste due citazioni, piccole citazioni di George Palante a questa diretta di oggi 7 marzo di Radiazione, diretta d'azione che del venerdì che include solamente controinformazione e musica. Ricordiamo gli indirizzi utili per Radiazione, radiazione@autistici.org. Per chi vuole mandare scritti, comunicati, mail e quant'altro possa essere pubblicato sul sito di Radiazione, oppure anche consigli sui libri da leggere il lunedì, lo ricordo che stiamo leggendo ancora Tortuga di Valerio Evangelisti, portando così a termine per ora la saga dei pirati dell'autore. Avevamo iniziato con Veracruz e quindi continuato poi con Tortuga, siamo alle ultime botte finali, penso altre due o tre letture l'abbiamo finito. Quindi chi ascolta le dirette di Radiazione, specialmente la giornata delle letture, e c'ha qualche libro da consigliare, lo può fare attraverso la mail. Invece il sito dove potete andarvi a leggere la controinformazione aggiornata quotidianamente in due lingue, non c'è più solo quella italiana, si è raddoppiata Radiazione, così rompiamo il cazzo due volte, Radiazione italiana e radiazione.org. Da sito di Radiazione a quella in lingua italiana potete accedere attraverso il banner che trovate sullo sidebar anche a quella in lingua serbo-croata. Quindi ripeto, dove potete leggere la controinformazione aggiornata, ma dove potete anche andarvi a riascoltare le vecchie dirette d'azione attraverso la categoria Ascolta le dirette d'azione, dove potete scaricarvi un po' di materiale attraverso la pagina dei download, manifesti, dischi, CD, opuscoli, libri, insomma c'è un po' di roba per la radio, la state ascoltando, oppure per chi è la prima volta che ascolta Radiazione, lo ricordo, Radiazione si può accendere il lunedì e il venerdì dalle 17 alle 19 attraverso il banner che trovate sul post che annuncia la diretta del giorno, oppure sulla sidebar sulla sinistra c'è il lettore flash play, in flash player, mettete in play, facile, facile, è un lettore, pigiate play e si accende la radio. Prima di mandare il prossimo brano volevo ricordare che lunedì c'è una variazione di orari per quanto riguarda la diretta di Radiazione, quella con la lettura di Tortuga e la controinformazione, che non sarà per le 17 ma bensì alle 19, quindi poi lo ripeteremo e poi verrà messo anche un avviso sulla pagina del sito di Radiazione di questo cambiamento solo per lunedì, poi vediamo se ci piace l'orario, si potrà valutare più in là se cambiare gli orari, vediamo un attimo come funziona lunedì alle 19. Ora ci ascoltiamo un brano di un brano, sto parlando sinistra, un brano di Placebo Effect, il brano è Move, dopodiché si rientra qua e poi si inizia subito con la diretta d'azione. We'll be right back. E questi erano Placebo Effect con il brano Move. Allora, dicevamo, prima notizia di controinformazione per la giornata, la prima notizia che ci arriva dal Messico, dove è stata, viene chiamata una settimana di solidarietà con gli anarchici messicani. L'ho detto più di una volta, almeno negli ultimi mesi, che la repressione stava imboccando la mano sui compagni laggiù in Messico. Erano accadute un po' di cose, ovviamente la risposta dello Stato messicano non è tardata ad arrivare, però comunque che ben vengano anche le cose che sono avvenute in passato, di attacchi alle proprietà dello Stato, ai servi dello Stato. Ricordo la sparatoria in cui vennero ammazzati gli sbirri lo scorso anno. Insomma, tutto questo poi alla fine ovviamente ci riporta che quelli non se ne stanno belli tranquilli, e purtroppo capitano storiacce di merda, vengono arrestati i compagni, deportati, fatti sparire. Allora, vi invito per una settimana internazionale di solidarietà con gli anarchici colpiti dalla repressione in Messico dal 17 al 24 marzo del 2014. Questo è un appello per la solidarietà internazionale con gli anarchici in Messico che si scontrano con la repressione, che sono rinchiusi dietro le sbarre delle prigioni o che sono in clandestinità lottando per la loro libertà. Lo Stato del Messico ha rivolto la sua attenzione al fiorente movimento anarchico che è stato attivo attaccando l'apparato di difesa dello Stato, cioè le fondamenta su cui poggia. Questo è il momento migliore per ispirarci in questo movimento anarchico in Messico e mostrare tutto il nostro amore per i nostri compagni detenuti. La storia del Messico è molto ricca e non può essere riassunta in un testo come questo. Quelli che possono essere menzionati sono gli sforzi che sono stati fatti per dar vita al conflitto contro lo Stato. Questa chiamata arriva in un momento in cui il movimento anarchico in Messico sta contribuendo attivamente alla lotta contro il potere e il dominio. Gli attacchi alla polizia ed i suoi veicoli, banche, edifici governativi e altri simboli del potere hanno portato lo Stato messicano a far partire la caccia per perseguitare coloro che hanno effettivamente minacciato la pace sociale. Ci sono stati diversi e recenti casi di repressione mirata contro gli anarchici in Messico, tipo l'arresto di Mario Lopez e Tripa nel 2012 e il suo nuovo arresto nel gennaio del 2014, l'attuale detenzione di Mario Gonzalez, il sequestro e l'arresto di alcuni compagni anarchici, la deportazione di Alfredo Bonanno e a chiunque fu proibito di entrare nel paese durante la giornata internazionale per gli anarchici informali, e l'interrogatorio e la deportazione di Gustavo Rodriguez, che è capitato sempre in quei giorni della settimana informale. C'è stata una forte risposta a questa repressione contro gli anarchici in Messico. Alcuni hanno celebrato e mostrato il coraggio dei compagni, alcuni hanno sostenuto gli attacchi di solidarietà attiva. Facciamo un invito tra il 17 e il 24 marzo a dare forza e solidarietà con gli anarchici in Messico che si stanno scontrando con la repressione. Oggi, in un momento in cui gli occhi dello Stato e dei loro cani sono rivolti verso i nostri compagni, c'è l'urgenza che la nostra risposta sia precisa. E poi il testo finisce con una citazione di Mario Lopez Tripa. Tuttavia, anche con l'imminente situazione di controllo sociale, chiunque non sia spaventato, quelli che di giorno o di notte, da soli o collettivamente, con il fuoco, esplosivi, blocchi, esplosivi o armi da fuoco, dimostrano che questa non è la vita che vogliamo, che, almeno dal nostro punto di vista, questo sistema deve essere totalmente distrutto. La loro dannata pace sociale è un mito che essi cercano di imporci. Esiste solo il conflitto. È chiaro che dobbiamo prenderci il controllo delle nostre vite e dei nostri spazi. Per essere capaci di raggiungerlo non c'è via d'uscita diversa della guerra sociale. E questa è l'ultima citazione che chiude il volantino, il documento che chiama questa settimana internazionale di solidarietà con i compagni in Messico. La citazione, lo ricordo, di Mario Lopez Tripa. Io riporto quello che i compagni chiamano dal Messico. lo riporto, lo traduco in italiano, se c'è qualcuno in Italia che vuole collaborare, contribuire a questa settimana di solidarietà, spazio alla fantasia, io non vi dico cosa fare, vi do giusto la chiamata. Ora ci ascoltiamo un brano, loro sono Pierce Splatter con il brano Frozen, e poi dopo si ritorna qui e ancora controinformazione. E questi erano Peter Splatter con il brano Frozen. Allora, si continua con la controinformazione, si continua con una bella notizia. Già si sapeva che sarebbe accaduto, anche leggendo qualche suo documento nelle vecchie dirette d'azione. Allora, praticamente la bella notizia arriva da Cile, dove José Miguel Sánchez Jiménez è libero finalmente. Allora, dalla mail dei compagni cileni si viene a sapere che, dopo aver trascorso circa 20 anni in prigione, il 27 febbraio il compagno José Miguel Sánchez Jiménez ha terminato la condanna imposta dal potere. Già dalla mezzanotte del 28 febbraio alcuni familiari e compagni di José Miguel si sono riuniti davanti al carcere dell'ex penitenziaria per riabbracciare nuovamente il compagno in strada. E così, tra striscioni, volantini, petardi e slogan in ricordo di altri prigionieri rivoluzionari detenuti, José Miguel è uscito dal centro di sterminio con il pugno e la testa alti. Tra abbracci e saluti, la giornata è terminata senza arresti e con scontri verbali con i carcerieri. Non dimentichiamo Marcelo Villarroel, Juan Alice Vega, Freddy Fuentavilla, Carlos Quidieres Quidileo, i quattro compagni detenuti per il caso Security, che dopo ne parleremo più approfonditamente, Hans Niemeyer, Tamara Sol Vergara e tutti i prigionieri rivoluzionari sovversivi e autonomi. Ci incontreremo in strada, saluti e abbracci, José Miguel Sánchez di nuovo in strada con noi. Allora, dicevo di Marcelo, Juan e Freddy, ne abbiamo parlato già ampiamente nelle dirette precedenti, anche su Radiazione. C'è un banner che trovate sulla sidebar dove c'è il manifesto, dove potete andarvi a leggere sia la chiamata per la settimana di solidarietà con i compagni del caso Security, sia il sito che è stato aperto appositamente per questa iniziativa. Quindi cliccate sul banner e poi ci sono tutti gli indirizzamenti come volete, sia per il sito sia per il testo tra l'altro firmato anche da Radiazione e anche da MA, dal trattino MA che collabora con me nelle dirette d'azione. Allora, questo era per quanto riguarda la notizia per la liberazione di José Miguel Sánchez, di cui dopo leggeremo anche un'intervista fatta dai compagni delle CCF in Grecia, che avevamo dimenticato di leggere nella scorsa diretta, a José Miguel Sánchez, a cui dà delle risposte molto precise, puntuali e un po' anche controcorrenti con certe idee, soprattutto per quanto riguarda, non voglio che se ne siano offesi, spero che non si sono offesi, però il compagno José Miguel Sánchez c'ha anche qualcosa da ridire su questa nuova anarchia, la new anarchy. Allora, prima di passare l'intervista ce la leggiamo più in là, spezziamo un attimo i continenti in modo di non essere fossilizzarci sulla stessa zona. Ci ascoltiamo prima un brano, il brano è dei La Sig Banthaus Automotive, e poi dopo si torna qui e si va in Grecia, dove c'è un testo invece questa volta del compagno anarcocomunista Tasos Theofilou. Automotive. Questi erano le Sick Band House con il brano Automotive. Quindi, come ho detto prima, ora si passa dalla Cile con la liberazione di José Miguel Sánchez Jiménez alla Grecia, dove c'è la lettera del anarcocomunista Tasos Tiofilou, compagno invece che ultimamente è stato condannato a 25 anni di carcere. Allora leggiamo la lettera di Tasos, tradotto dalla compagna che si cura la sezione serbo-croata di radiazione. Allora, alcuni giorni dopo che i tre membri della Corte d'Appello mi hanno inflitto la condanna di 25 anni per degli incidenti che conosco solo per televisione, penso che sorgono delle domande di natura esistenziale e che certe conclusioni di natura politica ne conseguono. Quindi, partendo da queste questioni, sorge la domanda: come può una persona come presidente di questa Corte, a cui anche dare in mano la gestione di un bar in campagna sarebbe una cosa rischiosa, avere tutta questa autorità nelle sue mani? Com'è possibile che una persona del genere, con la stessa ingenuità morbosa con cui ha condannato il mio caso, ha probabilmente processato centinaia, forse migliaia di persone, e che questo non sia uno scandalo? Com'è possibile che questa persona, palesemente non molto intelligente, tiene in mano migliaia di vite? Com'è possibile che, essendo lo Stato composto da queste persone incapaci, noi non siamo ancora capaci di organizzare una rivoluzione contro di esso? Com'è possibile che il PM non ritiene che dormicchiare durante l'udienza sia una cosa di cattivo gusto e non sente neanche il bisogno di dare un'occhiata ai minuti prima della sua orazione? Chiunque abbia seguito il processo ha potuto dedurre che la sua orazione si riferiva probabilmente ad un altro caso. Com'è possibile che proprio quelli che non considerano la giustizia criminale come una vergogna dell'umanità, ma un servizio, la riducono a brandelli per trasformarla nella biancheria elastica? Com'è possibile che il presidente e il PM non sentano la vergogna nel dichiarare pubblicamente che le dichiarazioni di difesa dell'imputato non possono essere accolte perché non le ha precisate negli interrogatori della Corte d'Appello speciale, discreditando in tal modo, per il timore della responsabilità, il presunto grado supremo della procedura, che è il processo? Però alcune conclusioni politiche che ne conseguono sono importanti, come ad esempio che il Tribunale con la propria decisione ha indirettamente riconosciuto la dimensione politica dell'accusa, perché se non l'avessero riconosciuto avrebbero dovuto assolvermi, ma questo vuol dire che sarebbe crollata già dalla prima sessione. Però hanno scelto un terreno politico, non giuridico, un terreno per bilanciare la pressione esercitata dall'alto, con in mezzo la frenesia antiterrorista, con la pressione esercitata dal basso, pressione che noi esercitiamo in ogni nostra lotta, piccola o grande. Pressione che è viva anche nel clima dell'assalto autocratico, grazie alla nostra fermezza, combattività e solidarietà. Perciò questa parte, grazie ai solidali che hanno seguito il processo e ai giornalisti del movimento, ha impedito che l'arbitrarietà del presidente e l'ascionità dell'accusa, che oscillava tra le bizzarrie di destra e una pericolosa ignoranza della legislazione penale, rimanessero negli stretti limiti dell'aula, mettendo una specie di freno alle loro assurdità. Apro una parentesi, vorrei vedere chi sono i giornalisti di movimento, perché mi preoccupo su questa affermazione. La Corte ha proceduto in stile Ponzio Pilato e, nel timore della responsabilità, con soluzione di precisione chirurgica, trasferendo all'appello tutte le responsabilità e tutte le possibilità, anche quella di controappello, come è successo alla fine. È importante anche notare che questa decisione non legittima il DNA come una prova, dato che l'oggetto su cui sarebbe stato trovare il mio presunto DNA di fatto non esiste, ma è una decisione che legittima l'immunità politico-giudiziaria, raggiungendo il suo apice con il controappello applicato dal PM Dracos. Inoltre, non si deve trascurare il fatto che, nonostante la Corte non abbia bisogno di prove per infliggermi una condanna per la rapina a Paros, contemporaneamente questa mancanza di prova era sufficiente per assolvermi dalle accuse per la partecipazione e integrazione alle CCF. Quindi da un punto di vista politico è importante notare che questo non è stato un altro passo verso l'incorporazione del dogma Marini, si riferisce all'inquisizione Marini del 1995 con processi che sono finiti nel 2003, anzi nel 2004 con la condanna in Cassazione per alcuni compagni. Perciò rimarrò in prigione per alcuni anni con la forza datami dalla consapevolezza che, come ogni altro anarchico, non sono dentro ingiustamente. Ho commesso un crimine che include tutti i crimini. Nella guerra di classe ho preso la posizione di quelli che hanno subito i soprusi. La prigione per un anarchico non è un castigo, ma solo un altro campo di battaglia. Non c'è spazio per le delusioni, solo un'ostinata intensificazione dell'andare avanti. Fino alla distruzione dell'ultima prigione, dall'Attica a Korydallos, da Pelican Bay a Domokos, da Guantanamo ad Amigdalesa. Tasos Teofilou, carcere di Domokos, 24 febbraio 2014. E questo era il testo del compagno appena condannato a 25 anni di carcere. Si fa delle domande, vabbè, a me mi è risaltata, a parte quelle iniziali su qualcosa c'è il dubbio, cioè onestamente andare a chiedere perché quell'uomo viene messo a servizio dello Stato per condannare a centinaia di vittime, io penso che non ci voglia, cioè vengono scelti appositamente tutti gli ignoranti per fare, portare avanti dei casi del genere. Per quanto riguarda i giornalisti del movimento, giornalisti anarchici, non mi ricordo come li definisci, questo mi mette un po' di brividi addosso e praticamente introduce anche il testo che andremo a leggere subito dopo il prossimo brano. Prossimo brano che è dei Santa It's You, il brano è Scam, e dopo si torna qui con un brano che forse si collega ai giornalisti anarchici. Thank you. questi erano Santa Ezio con il brano Scam. Allora, prima di passare alla prossima lettura, volevo ricordare l'appuntamento per lunedì, che non è alle 17, bensì alle 19. Lunedì per la prima volta la sezione si inizia con un orario che va in serata, che è più che pomeriggio, come si fa da un paio d'anni a questa parte. Quindi lunedì ore 19 con l'appuntamento con la radiazione, la controinformazione e soprattutto la lettura di Tortuga di Valerio Evangelisti. Allora, parlavamo in riferimento a quello che scriveva il compagno Tasos Teofilo dalla Grecia nella sua lettera, in cui citava dei giornalisti anarchici. Mi ha messo un po' i brividi, però da un'altra parte forse va a confermare quello che ho scritto io nelle riflessioni che ho pubblicato proprio ieri a Riflessioni FDSI 6, quindi il continuo delle riflessioni sulla radiazione, che da quando ho aperto nel vecchio blog fino ad ora non sono mancate ogni tot, si dice, la propria, anche per dare un'impronta al sito, il blog, quando era blog. Allora, riflessioni FDSI 6. Era da un po' che non scrivevo per dire la mia, facendo girare le palle a qualcuno. Se sono cosciente che le faccio girare, se non fossi cosciente non scriverei. Ma non ci godo in tutto questo, perché vorrei che le cose che scrivo fossero prese come delle provocazioni per dar modo a qualcuno di riflettere. Lo so che aspiro a tanto, però io ci provo. Non penso di avere la verità in tasca, anzi, mi autocritico abbastanza e tantomeno sono uno pseudo nichilista del cazzo chiuso nella sua cameretta a criticare tutto e tutti. Innanzitutto, il perché scrivo delle mie riflessioni su questo sito è presto detto. In primis, penso che portando avanti progetti come un sito o un blog di controinformazione ci si debba spendere anche in questo verso. In poche parole, dal momento che ho pensato di aprire prima un blog e dopo averlo trasformato in sito, non volevo assolutamente che questo fosse un raccoglitore di notizie e testi e basta. Sarebbe stato, per come la penso io e senza offendere nessuno che ha idee diverse, molto minimale. Sarebbe stato un ennesimo raccoglitore di notizie e testi di cui ce n'è già abbastanza nel web, e non solo nel web ma anche su cartaceo. A me questo percorso non interessa, come non interessa pubblicare la qualunque notizia o testo pur di dar da mangiare all'asino per non farlo morire. I testi che vengono pubblicati su Radiazione sono perlomeno in buona parte condivisi dal sottoscritto, quindi se non si notano scritti pubblicati vuol dire che i punti di vista sono differenti. Ho deciso di portare avanti Radiazione e non un quotidiano nazionale in cui c'è di tutto, dalla politica allo sport. Ultimamente, per esempio, si è evitato di pubblicare testi da parte dei compagni detenuti in Grecia in riguardo a delle liti avvenute a Korydallos nel carcere, proprio perché preferisco altro tipo di riflessioni, anche se non le condivido in tutto, fatte dagli stessi compagni sia da una parte che dall'altra. E poi diciamocelo molto francamente, ho già da far fronte ai miei disgazzi. Non si parla, per esempio, di lotta Notav, per il semplice motivo che quella lotta, per come è portata avanti, non interessa. È distante non solo in chilometri di terra, ma anche in chilometri di idee. E quando da queste pagine è stato detto qualcosa, molti se ne sono risentiti. E allora sti cazzi, eviterò di parlare anche quella volta ogni tanto, anche se ci saranno anarchici arrestati, indagati e perquisiti. La solidarietà a tutti i detenuti, non solo anarchici, la complicità a pochissimi. Su queste pagine non solo ho detto la mia in contrasto con quelle degli altri compagni, ma quando ce n'è stato bisogno mi sono autocriticato e chiesto scusa senza nemmeno pensarci su un istante. Se qualche argomento non è stato più toccato dopo diatribe e offese subite molto pesanti, non è perché chi ha offese avesse ragione. Anzi, Radiazione non ha chiuso il blog, è diventato sito e ultimamente è in due lingue. Chiedere scusa molto spesso viene inteso come perdere purezza, fierezza e durezza. Infatti non ricordo scuse anarchiche quando ce n'è stato bisogno. Bisogna sapere distruggere le sbarre che abbiamo nel cervello prima di pensare di distruggere quelle di un carcere. Quindi, anche andando incontro ad errori e per poi scusarmi, continuerò a dire la mia, a dare la mia impronta a questo sito. Se a qualcuno non piace il sito, basta non leggerlo, oppure criticarlo, discuterne tramite mail, lettera, piccione viaggiatore, eccetera, eccetera. Sicuramente non deviando la posta da altre parti, o andare in giro a dire che colui che porta avanti la reazione è una testa di cazzo, che fa danni in giro, che litiga con tutti da anni. Queste cose lasciamole fare agli sbirri, non tra anarchici, anche se non la vediamo allo stesso modo. A differenza di tanti, sono cosciente di essere una testa di cazzo e che molto spesso per non farsi nemici tra i compagni farebbe bene a stare zitto e non scrivere cosa pensa. Ma sarei falso e soprattutto non sarei più me stesso. Allora preferisco i buoni e sani litigi e dire sempre la mia. Criticarsi e autocriticarsi è un modo per aprire dibattiti, discussioni, ma soprattutto un modo per crescere tutti, perché lo sbaglio più grande è sentirsi arrivati in un esistente come questo. Odio il sentir dire, ma certe cose è meglio che restino tra di noi, perché so benissimo che restano inciuci e basta. Inoltre, discutere di email di cui di mali di cui soffriamo anche apertamente su un giornale o su un sito lo trovo un modo di confronto quando non si ha la possibilità di potersi incontrare. Buon viso e cattivo gioco non fa parte di me. O mi si odia o mi si ama. Io di sicuro più mi odiano e più mi amo. Allora, questo era il testo, le ennesime riflessioni pubblicato sul sito di Radiazione. Siamo arrivati alla sesta, forse sì, alla sesta, FDS6, in cui ho toccato un po' di punti che praticamente per me sono molto importanti, per altri sono meno. Dal punto di vista mio, di una persona, di un compagno che porta avanti un sito di controinformazione, per esempio da noia, da molta noia, vedere un'infinità di siti e blog anarchici che si limitano a pubblicare solo la notizia, pubblicare la notizia e basta, senza mai spendersi più di tanto nel dire un qualcosina, dire la propria, il perché si porta avanti anche un sito, un blog, così si fa la fine dei giornali. E qui mi riallaccio al compagno Taso Stiofilo quando dice di anarchici giornalisti. Quando si fa un lavoro del genere, non se ne offenda nessuno, si fa la fine di qualsiasi sito di giornale nazionale di stampa, stampa nazionale, che possiamo trovare anche sul web, dove pubblicano di tutto: la politica, la cronaca, il gossip, la cultura, lo sport. E alla fine, da quello che vedo, molto spesso non vengono nemmeno lette le notizie che vengono pubblicate, perché a volte ci sono dei errori di traduzione, a volte ci sono incoerenze grosse. La coerenza, cioè essere incoerente, io sono il primo a essere incoerente, però il testo me lo vado a leggere, non vado a pubblicare la qualunque notizia, non vado a pubblicare dall'attacco della FAI all'attacco avvenuto in Germania in solidarietà con un ex sbirro dell'FBI che ha fatto di tutto, ha praticamente messo sotto controllo tutto il mondo, poi dopo si è pentito, ha attaccato gli Stati Uniti, però sti cazzi. Allora, avremmo dovuto gioire anche all'attacco delle Torri Gemelle. Vabbè, da una parte uno gioisce perché sono stati distrutti dei simboli del capitale, però dall'altra parte vediamo pure chi cazzo ha fatto quell'attacco. L'ha fatto e rivendicato una sigla di matrice religiosa, una matrice che a noi anarchici ci farebbe il culo se ci avesse sotto mano, perché siamo siamo quelli, siamo il diavolo, siamo l'antireligione, l'antidio in tutti i nomi, antidio, anti-Buddha, anti-Allah, anti sti cazzi. Quindi, vabbè, tanto per dire, cioè, secondo me sui siti e sui blog di controformazione anarchica, l'anarchica dovrebbe andare a pubblicare certi tipi di notizie e non qualsiasi cosa. Poi un altro tema che ho affrontato era quello del continuo inciucio nel movimento anarchico. Quante volte mi sono sentito dire quella cazzo di frase, ma è meglio che certe cose ce le teniamo tra di noi. Ma perché? Ma perché ce le dobbiamo tenere tra di noi? C'è vergogna a dire che ci sono delle grandi cazzate e vengono dette delle grandi cazzate o vengono fatte delle puttanate da parte di altri compagni, anche da parte mia, non è che sono dato la colpa a qualcun altro, dico da parte di tutti. Quindi cioè, io preferisco sempre andare andare un attimo a criticare certi atteggiamenti, certe cose, proprio per questo motivo, perché si deve creare discussione, perché si deve creare dibattito su queste cose, che poi non si svolge su internet, non si svolge su un giornale, si svolge dal vivo, tra persone, tra compagni. Cosa che non avviene, lo ripeto, non avviene, perché molto spesso, sì, mi sento dire questa frase, ma certe cose restano là. Allora qual è la cosa migliore? La cosa migliore è stare zitti, se non ti vuoi fare nemici ti stai zitto, non dici un cazzo, non lo dici cosa pensi, non vai a criticare altre lotte, e lì siamo tutti compagni, ci vogliamo bene e poi ci tiriamo le pugnalate alle spalle. Allora a me mi interessa, in un percorso di lotta, andare a avere a fianco una persona con cui io ho detto tutto me stesso e sono me stesso, là come mi vede quello sono, e preferisco che anche quella persona lo sia, e no averci una persona che all'improvviso durante un qualsiasi cazzo mi accoltella le spalle. E questo per quanto riguarda quest'altro argomento toccato nelle riflessioni di radiazione. Poi le scuse che non arrivano mai, arrivano solo dalla reazione, mi sa, perché nessuno chiede scusa, nessuno negli anni, io non mi ricordo un articolo uscito in cui si è detto una cazzata, molto, ne sono uscite tante, e mai che nessuno abbia chiesto scusa dopo aver capito che ha sbagliato. E questo perché poi dopo non si è più fieri e duri, non si è pure duri, ma sti cazzi, non si è pure duri dove? Cioè a chi lo dimostri non essere più pure duro? Perché essere pure duro deve iniziare da dentro, cioè andarsi a mettere una maschera di purezza, fierezza e durezza, quando non lo si è, quando si è coscienti di non esserlo, è una cosa ridicola, è una cosa, cioè è una mancanza di dignità verso il nostro io. Quindi cioè io, con il fatto che più di una volta ho chiesto scusa dalle pagine di radiazione, spero che anche altri compagni ne prendono esempio. Poi lasciamo un altro tema, era quello di chi gli rode il culo per qualcosa che viene scritto nella reazione, e quindi se ne va in giro tramite mail e va a fare sti giretti parlando male di sottoscritto, gli fa radiazione alla testa di cazzo, che fa danni in giro, che litiga con tutti da anni. Ma io litigo con tutti da anni, perché ho sempre da anni detto la mia, ho detto sempre la mia, e perciò ho finito il testo sulle riflessioni con la frase: o mi si odia o mi si ama, più mi odiano e più mi amo. E questo perché io ho detto sempre la mia, qualcun altro non l'ha mai detta, non l'ha mai detta, e questo si allaccia al discorso di prima, perché quando non la dici fai d'accordo con tutti, al momento che la dici sei una testa di cazzo, fai danni in giro e li dichi con tutti, grazie al cazzo, io aggiungerei. Allora, questo erano bene o male per quanto riguarda le riflessioni a parte sulla radiazione. Ci andrebbe pure molto approfondito il discorso, qui da solo sento un po' mi sento anche un pochino disagio, mi piacerebbe cioè tipo quando fino a qualche mese fa c'era la compagna che facciamo la diretta d'azione, non parlo di Marcello perché con Marcello facciamo la lettura e già poverino già si prende le rotture di coglione da parte dei compagni solo perché fa la lettura sulla reazione, già è successo più di una volta, quindi cioè, non mi riferisco a Marcello ma mi riferisco al periodo quando qui c'era la compagna, quella che porta ora avanti la sezione di reazione in serbo croato, in croato, in cui si riusciva a discutere. Ora da solo qui cioè leggo, posso spiegare un pochino le cose che ho letto, però con più di là poi alla fine non posso tanto approfondire, altrimenti vi faccio una testa così, vi rompete coglione, giustamente spegnete la radio, la potete pure spegnere, a me me ne frega un cazzo, quindi parliamoci chiaro, non vivo di come cazzo si chiama, di share, di picchi di ascolto. Se si fa la radio è per lo stesso motivo per cui si mettono le riflessioni sul sito di radiazione, praticamente io sia con le riflessioni sia con la radio ci metto sul sito la parola e ci metto la faccia, con la radio ci metto pure la voce, quindi no, non faccio il testo anonimo, chi mi conosce lo sa e sa che oltre ad essere la testa di cazzo che tanti pensano sono anche altro, quindi non c'ho da spiegare niente a nessuno, va bene così. Ora ci ascoltiamo un brano di Velvet Acid Christ Malfunction e poi dopo si torna qui con quello che aveva già introdotto prima, l'intervista dei compagni delle CCF a Jose Miguel Sanchez y Menez. E questi erano Velvet Acid Christ con il brano Malfunction. Malfunction mi ha fatto apposta dopo le riflessioni di Prima Radiazione, che potete trovare sul sito proprio di ieri. Allora, avevo detto, passiamo all'intervista del compagno Sembiche Sanchez Menez, rilasciata ai compagni delle CCF. Intervista, sono alcune domande che i compagni delle CCF pongono al compagno in carcere su alcuni aspetti del movimento anarchico. Allora, leggiamo direttamente quelle che sono le domande e le risposte da parte di José Miguel Sanchez. Guerrieri della lotta di liberazione, cospirazione delle cellule di fuoco, presente. Avendo già attraversato mari e montagne, questo testo è arrivato alle vostre mani e mando a ciascuno di voi un abbraccio rivoluzionario, amorevolmente nella rivolta e desiderio dell'attacco al potere attraverso l'azione diretta, violenta e distruttiva. Qui, tra le aspre pareti, mure pieni di ingiustizie e brutalità statali, rispondo all'intervista informale che mi avete inviato nell'ottobre del 2013, cercando di essere il più chiaro possibile, perché io non sono molto bravo ad esprimervi per iscritto, cosa che dovrò migliorare. Allora, la prima domanda da parte dei compagni delle CCF è: nel 1991 in Cile cade la dittatura e la repressione si chiama democrazia. Quali processi sono avvenuti nei gruppi della guerriglia? Quali sono le ragioni per le quali tu personalmente hai scelto per continuare la lotta e non dar tregua alla democrazia? Jiménez: posso parlare solo del processo che si è vissuto all'interno del FPMR, Frente Patriottico Manuel Rodriguez. A quel tempo ero già in prigione e gli incontri di Rodriguistas erano di consultazione, dove si pianificava l'accumulo di forze lavorando nel sociale, studenti, sindacato dei lavoratori, la popolazione, riunioni di quartiere, eccetera, eccetera. Ossia, di qualche forma di ripiegamento per accumulare forze, ma fu esclusa l'azione armata. Io sostenevo che se eravamo un'organizzazione politico-militare non potevamo accantonare le azioni armate, poiché la politica era dettata dalla stessa azione. Una volta uscito di prigione, mi sono rifiutato di essere parte di coloro che hanno creduto avvicinarsi nel lavoro sociale e in forma mascherata di comprare la storia della democrazia guidata. Ho sempre creduto che la violenza contro lo Stato va perpetuata solamente se fatta con la violenza audace, complice, clandestina e accurata, e questo l'ho assunto nella coscienza. La seconda domanda è: qual è lo stato corrente del movimento anarchico in Cile? Conosci le diverse correnti che ci sono e qual è la tua posizione? La situazione del movimento anarchico, con la mia visione limitata dal carcere, la vedo in ascesa, cresce ma senza la capacità operativa che desideriamo. Senza una continuità permanente nei vari attacchi, c'è molto lavoro da fare in questo senso. Le esperienze dovrebbero essere trasmesse agli affini. Il saper muoversi, confrontarsi, avere una conoscenza di uso e manutenzione di diverse armi, che abbia almeno un giubbotto antiproiettile quando si opera in un'azione ad alto rischio, eccetera, eccetera. Il fatto è che abbiamo bisogno di rafforzare la parte operativa di tutti quelli che assumono come forme di vita l'attacco al potere. Dobbiamo essere in grado di affrontare il potere e i suoi sbirri senza esitare un attimo, con astuzia, coraggio ed efficacia. Per questo dobbiamo applicarci fino a quando ogni combattente sia un esercito. Solo così possiamo rendere più solida la sicurezza. Le varie correnti anarchiche non le conosco tutte, però anche io non ho fatto grandi sforzi per interiorizzarle in questo aspetto. La mia posizione, credo che quando sopracitato, la mia posizione è chiara, giusto? Terza domanda da parte dei compagni delle CCF: cosa ne pensi della Federazione Anarchica Informale, Fronte Rivoluzionario Internazionale e della Guerriglia Urbana Anarchica Internazionale? Già in un'occasione ho parlato della FAI-FRI, ma voglio approfondire su questo. Per me non è proprio bene sbandierare la lotta per chi sento come si uniformasse. non credo nelle avanguardie o comandi verticali, né organizzazioni o partiti. Credo nella lotta per l'emancipazione totale, non credo nei padroni, dei o stati, credo nell'attacco diretto, sull'uso della violenza e di agire secondo coscienza, avendo sempre chiaro l'intenzione di attaccare potere e tutto il suo disgustoso entourage. Penso che se vi è la possibilità di attaccare potere contemporaneamente in diverse parti del mondo e uno può aggiungersi all'attacco diretto, lo deve fare ma senza andare a classificare nessuna delle proprie azioni. Domanda numero 4. Molto spesso sia i comunisti che i circoli anarchici ufficiali, seguendo una morale borghese per non spaventare la società, occultano o non accettano metodi di lotta illegalisti, come rapine in banca o esecuzioni armate di dirigenti dello Stato. Cosa ne pensi? Penso che se vogliamo combattere qualsiasi sistema brutale e spietato si deve fare con tutto. La violenza è un'arma efficace e dobbiamo sempre tenerla presente nei nostri attacchi. Il nemico non ha dubbio sull'utilizzarla e effettivamente la utilizza ogni giorno per attuare la sottomissione attraverso il terrore statale. Gli assalti, espropriazioni, esecuzioni violente sono i mezzi che dobbiamo utilizzare per rafforzarci in questa lotta. L'espropriazione è il modo più efficace per avere un'infrastruttura informale forte e combattiva, come lo stesso acquisire il necessario per colpire con maggior sicurezza ed efficacia. Cose come le armi corte o lunghe, esplosivi, giubbotti antiproiettili, case sicure, eccetera, eccetera. Così come serve anche assistere i detenuti e le loro famiglie, da usare nella diffusione, nella propaganda, eccetera. E alle risorse economiche gli si può dare un buon uso, con questo rafforziamo l'idea e potremo avanzare. La violenza è il mezzo da utilizzare per affrontare il potere, senza esitazione. E poi c'è la quinta domanda, dopodiché faremo una pausa con un brano musicale. Quinta domanda da parte dei compagni delle CCF. Qual è la tua posizione sul silenzio sociale e servilismo delle spie, piccoli borghesi e cittadini legalisti? Questo silenzio sociale dei poveri è qualcosa che provoca indignazione. È per l'abitudine ancestrale di essere un soggetto passivo, che non mette in discussione nulla o semplicemente si abitua ad avere padroni. In questo caso la mia lotta non dipende da questo, nel senso che non faccio il mio percorso per questi schiavi attuali. Sul servilismo delle spie e dei cittadini legalisti penso che non meritano altro che disprezzo, perché non sono più della merda strisciante e servile. E dopo questo brano di Trial con il, da titolo Blut und Reisen, si passa continuo con le domande fatte dai compagni del CCF, a compagno José Miguel Sánchez Jiménez. Allora, eravamo finiti con la quinta domanda e la quinta risposta, si parte dalla 6. Questo periodo, oltre a te, sono prigionieri nelle mani dello Stato i rivoluzionari accusati per il caso Security. Sei in contatto con loro e se vuoi dirci qualche parola sul loro caso e gli ultimi aggiornamenti. Sì, siamo spesso in contatto, ci siamo incontrati, siamo stati anche imprigionati insieme in passato, sono bellissimi fratelli che hanno optato per la loro orizzontalità e per attaccare il potere. A me secondo me non perde l'occasione un attimo per andare a criticare anche le CCF, il compagno San Miguel Sánchez Jiménez. Questa è la seconda domanda, una dietro l'altra, dopo quella sulla FAI, che dà una piccola frecciatina parlando di, anche se i compagni del CCF parlano di orizzontalità e altre cose, però comunque cadono spesso nell'avanguardismo, almeno per quanto riguarda il sottoscritto. Allora, domanda numero 7: cosa accadde per cui non tornasti in carcere e non ti accontentasti di una scarcerazione legale? Quando mi diedero quella libera uscita nel 2007 stavo per finire 16 anni di carcere e mi mancava poco più di 4 anni per finire la pena di 20 anni. Non sono tornato di nuovo in carcere perché sono contrario che controllino la mia vita e se il nemico mi voleva in carcere doveva prendersi la briga di trovarmi, perché io volontariamente non avevo intenzione di fermarmi. Odio il carcere e credo nella distruzione della società carceraria, attaccare i carcerieri e la loro istruzione aberrante. Domanda numero 8. Qual è la posizione dei secondini e gli altri prigionieri con i guerriglieri imprigionati? Qual è la tua esperienza nella società carceraria? Le guardie mantengono la loro distanza da noi, ci odiano a volte perché ci dichiarano loro nemici, a volte quando capita di essere spostati se ne approfittano per darci qualche colpo. La posizione degli altri prigionieri è di rispetto per noi, per anni hanno vissuto con noi e sanno che facciamo la guerra ai carcerieri. La mia esperienza carceraria è di circa 32 anni di carcere in totale, visitando diverse prigioni in tutto il paese, sempre di scontro con le guardie, cercando di progettare sempre la fuga, scavando gallerie, partecipando a scioperi della fame, rivolte o preso spazi per le visite, eccetera, eccetera. Domanda numero 9. La solidarietà tra gli anarchici non sono solo parole. Dopo tanti anni di carcere, come hai vissuto l'espressione e la forza della solidarietà? Ci sono stati momenti in cui si sentiva che il movimento aveva dimenticato i suoi prigionieri nelle mani dello Stato? Per alcuni anni di carcere, quando mi allontanai dalla capitale, stando nel sud del Cile, ero molto solo e in quel periodo ancora non avevo contatti con il mondo acrata. Ma da quando mi sono rivendicato anarchico, non sono mai più stato solo. Sono sempre stati interessati a me e in tutti gli aspetti. Posso tranquillamente dire che la solidarietà tra gli anarchici è reale. Lo so perché la sto vivendo ancora ora, perché sono presenti in ogni gesto. Domanda numero 10. Come hai vissuto la tua clandestinità e la caccia da parte delle autorità e poliziotti? La clandestinità si assume con naturalità. Già, durante la dittatura, essendo un membro del FPMR, ho dovuto nascondermi per un po', durante la quale ho falsato completamente. Ho fatto un casino sul sito, non ho messo lo spazio. Ho falsato completamente la mia documentazione, compresi dei pass vari per i controlli di polizia. Domanda numero 11, ultima domanda. Quali sono i momenti di insubordinazione in carcere che ti sono rimasti in mente? Abbiamo parlato dei disordini e fughe di notizie che sono avvenuti nelle carceri in Cile. I momenti che tengo fresco nella memoria fu che per molti giorni nel 1994, quando fummo portati dal CAS, che sarebbe il centro di alta sicurezza, dalla Caglia 5 alla ex penitenziaria, accadde di tutto: molotov, bastoni, acqua bollente, catene, eccetera. Questo da parte nostra per difendere le nostre posizioni, fucilate e manganelli da parte della gendarmeria parchi, ed arrivavamo tutti feriti in questo trasferimento per l'inaugurazione della nuova, del nuovo carcere. Di rivolte e fughe sto per fare un libro, sicché per questa volta non ne parlo. Appena finito quasi tutte le risposte alle domande, non mi resta che inviarvi un abbraccio grande e combattivo, tutta la forza e la fraternità che ci unisce in questa battaglia contro l'esistente. Fraternamente, José Miguel Sánchez Jiménez, ex carcere Santiago Chile, 10 gennaio 2014. Il testo è di circa quasi due mesi fa, però ovviamente è stato reso noto ultimamente dai compagni cileni, e quindi è stato tradotto da parte di redazione in questi giorni. Poi c'è un post scritto: forse quando questa lettera vi raggiunge sarò già nelle strade unito alla rivolta. Esco il 27 febbraio e la notizia della liberazione di José Miguel Sánchez Jiménez l'abbiamo data come prima notizia di controinformazione della giornata, quindi anche a distanza di chilometri, chilometri e chilometri mandiamo un grosso abbraccio a José Miguel Sánchez. Ora ci ascoltiamo un brano degli Snog, Corporate Slave, e poi dopo si torna qui con l'ultima notizia di controinformazione della giornata. There is no America. There is no democracy. There is no America. There is no democracy. There is only IBM and ITT, Union Carbide and Exxon. There is no America. There is no democracy. There is no America. There is no democracy. There is only on your hands, pushing up, kill, can't come to me. E questi erano The Snog con il brano Corporate Slave. Allora abbiamo detto che si passa all'ultima notizia di controinformazione, arrivata giusto pochi minuti fa alla mail di radiazione, una traduzione che mi fa molto gentilmente la mia badante, la compagna che praticamente cura il sito di controinformazione, radiazione, si è provata. Allora vabbè, a parte gli scherzi, noi ci ridiamo sopra su ste cazzate, la badante rumena, il soprannome che è stato dato alla compagna che porta avanti radiazione serbo-croata da parte di qualche notav. C'è anche questo. Allora vediamo, questa traduzione è arrivata ora alla mail. Si va in Brasile, a Porto Alegre, 10 veicoli della polizia bruciati nella caserma della polizia militare il 24 febbraio 2014. Nella notte di lunedì 24 febbraio, 10 nuovi pick-up Frontier Nissan 4x4 della polizia sono stati bruciati all'interno della caserma della polizia militare, vicino alla fortezza centrale di Porto Alegre, nel quartiere di Partenon. La polizia mantiene una forte presenza con, tra l'altro, le sue residenze militari, il battaglione per le operazioni speciali e l'accademia militare. Dei 10 veicoli bruciati, sono 6 sono stati completamente distrutti. Furiose fiamme si sono levate dal fuoco intenso nell'intento di espandersi nel parcheggio vicino, con presenti più di 200 nuovi veicoli, in solenne attesa di adempiere alla loro funzione, sorvegliare, umiliare, assassinare. La perdita economica stimata dai media allarmati è di circa 1 milione. Però le perdite effettive sono realmente molto più gravi da quello che figura dai conti. Ciò dimostra che sono vulnerabili e che solo con un po' di benzina e audacia possiamo colpirli al petto. La polizia, i media, i cittadini obbedienti alle leggi, il segretario alla sicurezza e il governatore hanno versato la loro pietà. Noi applaudiamo a tutti gli indomiti. E questa era la notizia che arriva dal Brasile, da Porto Alegre, giusto per finire finire bene questa diretta di radiazione. Ricordo che comunque mi sa che saranno mesi di ferro e fuoco in Brasile, già lo è da un annetto circa, ma questi ultimi 2 mesi che anticiperanno i mondiali di calcio in Brasile, mi sa che ne sentiremo, e ne sentiremo, perché i compagni o comunque pure la gente non ha digerito bene l'arrivo di questo evento mondiale, un evento dove lo parla uno che segue il calcio, uno che è malato, io lo dico, sono drogato di calcio, cioè, guardo anche io, però comunque questa è una vergogna, questa è la super vergogna, quella dei mondiali di calcio, perché vediamo che puntualmente posti, specialmente come Brasile, zone povere, quartieri poveri, vengono rasate a suoli per far vedere tutta la mostrare tutte le città vetrine che ci sono in quei giorni ai turisti, ai stranieri, ai rompicoglioni che arrivano da ogni parte del mondo per seguire le loro cazzo nazionali di calcio. Un torneo molto patriottico, molto nazionalista, molto fascista, almeno dal mio punto di vista. Quindi fanno pulizie, alzano biglietti, alzano i costi anche per la popolazione, insomma, non girano i coglioni solo ai compagni, girano i coglioni un po' a tutta la popolazione brasiliana in quest'ultimo periodo, da qui a quando non finirà sto cazzo di mondiale di calcio. Allora, con questo finisce oggi la diretta d'azione di venerdì 7 marzo. Ricordiamo i prossimi appuntamenti, il prossimo appuntamento è quello per lunedì prossimo, lunedì 10 marzo, lo ricordo ancora una volta, c'è anche un mezzo avviso sullo sito di radiazione che la diretta d'azione di lunedì andrà in onda alle 19 e non alle 17, alle 19, dalle 19 alle 21, alle 21 è qualcosa, boh, non lo so, perché poi quando c'è la lettura normalmente ci si allunga un pochino di più, quindi dalle 19 sicuramente. Dalle 18, 17, 45, 18 La reazione sarà già on air con la playlist musicale che accompagnerà il pomeriggio di chi non c'ha un cazzo da fare con la musica. Quindi appuntamento per lunedì prossimo con controinformazione, lettura di Tortuga di Valerio Evangelisti e musica. Ripetiamo gli indirizzi utili per radiazione: radiazione@distici.org per mandare qualsiasi tipo di mail, notizia, informazione, giornali, materiale che volete pubblicare sul sito di radiazione. Ovviamente sotto censura, lo dico, sotto censura, non c'ho nessuna vergogna di dirlo, sotto censura, lo ripeto, sotto censura, non pubblico tutto, l'ho scritto nelle riflessioni e lo ribadisco a voce, quindi non tutto viene pubblicato sul sito di redazione, arrivano delle mail che a me dispiace, cioè, però... uno si dovrebbe rendere anche conto di quello che è radiazione, leggendo radiazione si dovrebbero evitare di mandare comunicati, mi dispiace che poi non vengono pubblicati, però è così, ci sono altri siti che pubblicano certe cose, quindi mandatela ad altri siti, non perdete nemmeno il tempo a mandarla a radiazione. Per il sito di radiazione, radiazione.org, dove potete leggere la controinformazione aggiornata quotidianamente, dove potete riascoltare le dirette d'azione attraverso i podcast, dove potete scaricare un po' di materiale nella pagina download, Libio, Muscoli, Manifesti e quant'altro, dove potete ascoltare la radio attraverso il lettore flash player che trovate nella sidebar, oppure cliccando sul banner vi reindirizza nella pagina streaming della radio, dove potete versare qualche cosa di soldi, perché qui sto scherzando, ora non mi fanno, altrimenti qua con le cazzate non si finisce più, vabbè. Quindi radiazione.org, ricordo che sì, la radio trasmette sul server dei compagni, del compagno di Anarchist Library, anarchia.net. Con questo è tutto, appuntamento a lunedì prossimo, lunedì 10 marzo, con controinformazione, lettura di Tortuga di Valerio Evangelisti e musica. Vi lascio con il brano di Society Burning, Awake, e con questo buonanotte. Smile.